Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e come al solito siamo avvicinati alla conclusione della giornata di Ciao Radio Como. E speriamo anche, magari il giovedì si fa un po' più tardi, si fa un po' più serata. Però per me che sono un pochino vecchietto e domani è l'ultimo giorno di lavoro, sono un po' alle cozze a livello di energie. E quindi tra poco me ne andrò anche a dormire, veramente. Però, diciamolo, è sempre bello arrivare alla fine della settimana e sentire l'arrivare del weekend. E allora io volevo anticiparvi un po', come ultima puntata della settimana, volevo anticiparvi il tema della prossima, che sarà il Regno Unito, United Kingdom, un posto che io non adoro, non amo, ma lo stesso vorrò esplorare con voi settimana prossima attraverso la sua musica, che di sicuro è uno dei vanti degli inglesi, e di sicuro apprezzo anche io. Vedremo se saremo sugli stessi gusti per quanto riguarda la musica british. E poi volevo fare esploreremo alcuni autori che comunque di letteratura anglosassone ce n'è aiosa. Oggi vi do questa prima introduzione su proprio Londra e l'Inghilterra, partendo da forse il più nuovo e il più famoso scrittore inglese e cantante. Uno è Benjamin Clementine, l'altro è Oscar Wilde. Stiamo parlando naturalmente di Londra perché tra poco partirò per Londra, quindi adesso mi voglio fare per il weekendino che andrò a Londra, mi volevo cimentare un po' in qualche scoperta e volevo portarvi con voi. Chissà che magari qualcuno di voi ha programmato un bel Natale a Londra. Intanto, già che ci sono, saluto tutti i miei amici che abitano lì, che vivono lì da tanti anni, dalla Giulia Fumia, Ricky Gnocchi, la Isa, l'Alessia, Palermitana grande, e vi saluto tutti. Adesso vi lascio con Benjamin Clementine. Non ho scelto London per non fare il banale, ma spero che la conosciate tutti London. Ho preso la mia preferita, quindi addio. Ma non è un addio vero, è un ci vediamo tra poco. Adios, adios, adios to your afternoon. 'Cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios. Yes. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regrets? So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. In a little people have been coming up to me lately and talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young, but yet your world seems to be very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny, because when I'm on my journey, you know, and I'm, you know, figuring things out, I do come across, surprisingly, angels to come to me and sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly their melodies, it goes something like this. Until then, I'll be forever chasing it all to the very end. The decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine. The decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine. L'estetismo di Benjamin Clementine, la sua grande fantasia e una canzone straordinaria secondo me. Passiamo a un altro che ha fatto la storia per quanto riguarda la letteratura inglese, Oscar Wilde, che nel 1881 ha scritto Symphony in Yellow. Io ora, perché so che siete proprio accaniti e quelli che mi ascoltano sono dei grandi fan di cuore, ve la leggerò anche in inglese, così mi potete, sono sicuro che mi perdonerete la pronuncia. Naturalmente poi ve la leggerò anche in inglese e anche in italiano, volevo dire. Questa poesia è un racconto di una tipica giornata londinese, di una giornata gialla, autunnale, ma dove, come spesso accade in Wilde, basta un po' di colore di una farfalla a rimandare a tutto alla bellezza. An omnibus across the bridge crawls like a yellow butterfly, and here and there a passerby shows like a little restless mind. Big bears full of yellow hay armored against the shadow wharf, and like a yellow silken scarf the thick fog hangs along the fire. The yellow leaves begin to fade and flutter from the temple elm, and at my feet the pale gray green team lie like a road of ripped dirt. Va bene, ora ve la leggo in italiano così capite qualcosa. Un autobus attraversa il ponte, si muove lento come una farfalla gialla. E ora qui, ora lì, un passante assomiglia ad un piccolo moscerino inquieto. Barconi carichi di fieno giallo sono ormeggiati lungo il molo ombroso. E come una sciarpa di seta gialla, la fitta nebbia pende sopra la banchina. Le foglie gialle iniziano ad avvizzire, dagli olmi del tempo si distaccano. Ai miei piedi il Parigi, il Tamigi verde chiaro, come verga di giada increspata. E chiudiamo con questa Londra che è sempre un po' triste e cupo a livello atmosferico, con le sue piogge sottili, quelle che non senti neanche che piove e ti rinfrescano. Ah, la Londra un po' più animata, agitata, delle grandi serate, dei pub, dei disco. Una città che vi consiglio di andare. Settimana prossima, come vi dicevo, affronteremo altre tematiche, dalla grande musica alle grandi poesie dei poeti anglosassoni. Se volete suggerirmi qualcosa, scrivetelo su Facebook alla pagina di Allineamenti, con un bel hashtag Buonanotte Allineamenti, e mi dite cosa volete che porti qui in radio. Se volete portare qualcosa voi, naturalmente, non esitate a scrivermi. Buona serata a tutti, vi auguro un buonissimo weekend e a presto. Questa era Gas, questa era Buonanotte Allineamenti, questa era Ciao Radio Como. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.